È con noi il regista Berardo Carboni per parlare del suo film Utopia. Berardo, ben ritrovato. Ciao Federico, ben trovato a te. Un nuovo lavoro, era un po' che mancavi. Sono andato a ricontrollare diversi anni fa per Shooting Sì, per il Silvio. cinema, poi ho fatto diversi documentari Sì, e sì. lavori sperimentali al cinema da 10 anni. Ci racconti un po' brevemente questo Utopia? Utopia, brevissimamente, è la storia di una ragazzina appena 18enne che decide di vendere la verginità online, in un'asta online, perché la mamma non riesce a pagare il mutuo. Ma è anche, diciamo, una storia d'amore molto romantica, perché oltre a fare striptease, appunto organizzare l'asta, lei col computer gioca a un videogioco, uno di questi videogiochi massive multiplayer in cui giochi con altri utenti, e si innamora platonicamente dell'avatar di un suo amico con cui gioca. E questa esperienza le cambierà la vita, il sistema di desideri, di valori e quindi anche la sua storia personale. Ok. Senti, com'era nato il progetto? Il progetto nasce, il primo input mi viene in realtà dalla parte, diciamo, positiva di questa storia così dura, perché stavo girando appunto uno di questi miei lavori sperimentali, che ero girato in macchinima all'interno di un videogioco. Ho fatto un'esperienza immersiva perché, diciamo, l'operatore di quel film, siccome è una tecnologia molto complessa, era a Rotterdam, quindi ho vissuto a Rotterdam un periodo isolato, in cui stavo in questa casa con questo operatore durante il giorno e solo durante la notte in cui spesso giravamo, perché era fatto con tutti, appunto, utenti del mondo, e mi sono reso conto che appunto si possono costruire relazioni complesse, cioè di profonda amicizia, ma anche sentimentali, all'interno di un videogioco. E quindi anche la portata culturale che ha l'esperienza del videogaming sarà decisiva. Poi ho pensato, però questo aspetto positivo, se poi lo ricavo nella realtà fuori dal computer, diciamo, dal gioco, e in questi anni così disperati e duri, faccio un film che non è dentro la realtà. E quindi gli ho costruito attorno una storia, cioè, che poi diventa la storia principale del film, che è questa denuncia profonda del crollo diciamo, sia del sistema economico che di valori della società in cui viviamo. Senti, in fase di scrittura hai fatto riferimento alla cronaca? Guarda, sì e no, nel senso che c'erano vari episodi, ma poi mi sono inventato una storia completamente. Gli episodi di cronaca più simili a quello che abbiamo scritto sono arrivati dopo, cioè una specie di annuncio. Cioè, alcuni sono stati sorprendenti in questi mesi, perché c'è stata proprio questa modella che aveva simulato un'asta online, però Sì. è successo dopo. Dopo, mentre scrivevamo, è stato molto bello, ti senti proprio, insomma, in aderenza con il reale. La finzione è venuta un po' prima in questo caso. Esatto, è anticipato purtroppo in maniera cupa, perché non è che insomma è un bel fare quel rendersi online, diciamo. D'altra parte, però, secondo me il film è anche come se vuoi, anche un contenuto addirittura morale, perché poi non si limita a guardare la realtà, diciamo, distaccata, a vedere il mondo brutto così com'è, ma anche a, diciamo, proporre degli input, delle possibilità di vita diverse. Oh, Berardo, hai avuto questo periodo da Shooting Silvio in poi in cui ti sei dedicato al cinema sperimentale. Volevo sapere in che maniera lavori e in che rapporto stanno nella tua attività la parte sperimentale e quella di fiction cinematografica. Ma guarda, è tutto integrato, cioè diciamo che io tendenzialmente vivo delle esperienze di vita che poi si trasferiscono nei miei documentari, oppure in questo caso di questa animazione così di ricerca sono stato un input addirittura, che ho raccontato, completamente ispiratore del film nuovo, Sì. e quindi è come se fossero appunto i bozzetti, questi lavori sperimentali del lavoro che poi vado a Ok. formalizzare nel tempo. E non è Ok. soltanto, cioè, anche che ne so, l'esperienza al Teatro Valle che abbiamo in parte anche condiviso, no? Anche Certo. quello, il film, questo qui, è stato scritto in buona parte anche lì dentro fisicamente. Sono esperienze che uno in qualche modo, è anche un documentario che ho fatto, nasce dentro quell'esperienza. Appunto non c'è una linea di discontinuità, è tutto Sì. Ok, collegato e diciamo una cosa porta all'altra. ok. Senti, che forma distributiva hai escogitato per questo film? Guarda, in questo caso il film ha una distribuzione, diciamo, grande, una società multinazionale che è Koch Media. Quindi in realtà io, diciamo, do delle suggestioni, però tutto il lavoro distributivo è organizzato da loro con i loro tempi e modi. Però devo dire che mi sono trovato bene. Ero un po' spaventato perché io appunto con questa esperienza radicalmente indipendente in passato, è la prima volta che mi trovo a lavorare per il cinema con una società multinazionale grande. Era capitato per la TV, mercati tipo DVD, home video, però al cinema è la prima volta, ma devo dire che per ora è un esperimento riuscito. Senti, ci saranno proiezioni accompagnate dalla tua presenza? Eh Sì, lo seguo dappertutto perché è sì. naturale così. Poi ho fatto un tour per l'Italia, è giusto anche seguirlo. Senti, ci dai dei riferimenti internet per seguire le varie tappe? Guarda, io penso che sarà tutto quanto sulla pagina Facebook, a parte che sul mio profilo personale chiaramente riposto tutto. Però insomma sarà tutto sulla pagina Facebook del film, che è Utopia il film, che appunto gestisce la distribuzione, ma di solito sono abbastanza puntuale nel indicare come si muove. Benissimo. Allora, Berardo, ricordiamo l'uscita del tuo film, Utopia. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a Ciao. presto, ciao, viva!